signori, se da quel cattivaccio anche le scarpe, grazie. Ciao. Ciao. Ci sei. Tu sei scemo. Non è caldo, no? Ciao. Caldo c'hai, eh? Un telattino specialmente, che ti fa rubare un po' stasera. Hai toccato l'eco, ci hai messo. Sì, c'è l'eco. Lo so, quello è con le scocciolina. Sale così. Devo accendere l'amplificatore. C'è un pulsante, c'è. Dovrebbe essere il unico il pulsantino in pratica vicino alla, come si chiama? Allora c'è scritto clarifier. Sopra c'è un pulsantino, mi sembra che quello è l'eco. Va bene, va benissimo così. Se fate piano va bene. Sì, già parlo piano allora. A me lo ti capisco quando fate piano. Quando c'è l'eco. Cosa sta combinando con la maglia alta? Si sta guardando la televisione. Strano. Così è fatta. Con la televisione e con il frigorifero acceso, con il refrigeratore. Allora lui oggi in offerta banana. Ho capito. Niente, tu dici una cagata. I passeggeri sono fregati di allacciarsi le scarpe. Ah, Daniele ha atteso i K2. Mamma mia, c'è tutti e due oggi, Manca solo Mirko, ma così è. C'è Giulio e Daniele. Mirko dovrebbe essere al mare. Sì, mi arriverà a morso stasera al mare. Il caldo che c'è. Speriamo, ma non si rimane marrone. Ma sta sveglia. Salute. E vedo acqua. Sì, ma ci sono altri bambini in garage secondo te? Se ci sono altre? Altri bambini in garage per la macchina? No, non credo. Vabbè, sono da controllare, poi usciamo. Ci sentiamo dopo, passo e chiudo. Sì, va bene. Chi è? Chi è? Pomponio.